Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e ritrovo sempre con gran piacere il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, bentornato. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi sento che sei in automobile, parliamo in qualche modo di problemi che hanno gli automobilisti, non quando guidano, ma quando magari la macchina inizia a fare quei rumoretti, quelle cose che dici, aia, qui sono dolori, perché immagini già quale sarà il conto salato per portare la macchina a dare un'occhiata, perché si dice sempre vado a portare la macchina a dare un'occhiata, sì, e dopo, dopo sono dolori. Sì Francesco, sono proprio dolori, è il caso del socio che si è rivolto all'Adico qualche giorno fa, proprio perché le prese con un'officina che a nostro parere non si è comportato in maniera trasparente con un suo stimato cliente di fiducia. Però prima di entrare nel merito della vicenda bisogna anche sempre ricordare ai nostri ascoltatori come, cioè, non dico l'obbligo, ma non voglio neanche dire buon senso, ma si è tenuti veramente a pretendere, a richiedere, a farselo rilasciare prescritto quello che deve essere un preventivo quando si porta un'auto in officina, perché troppe volte i casi che l'ha ricordata hanno a che fare con officine che noi riteniamo poco serie, che poi decidono di trattenersi anche l'auto fin tanto che la persona non paga quelle che sono delle fatture spropositate rispetto all'intervento che hanno realmente effettuato. Ecco, questo è un problema che può capitare. Io mi ricordo che per esempio ci sono anche delle tabelle, no? Per cui se uno deve fare della normale manutenzione i costi sono standard, se poi uno riesce a risparmiare meglio, ma più su di quei costi standard non si potrebbe andare, è corretto? Sì, normalmente non si potrebbe andare su, oppure le officine più serie hanno l'obbligo morale di contattare il cliente e di avvisarlo di eventuali variazioni rispetto a quello che è un preventivo concordato. Però alla base di tutto ci deve essere un preventivo scritto, quindi una persona porta l'auto in officina prima di fare l'intervento, se non sei in grado di darlo subito comunque si deve chiedere un preventivo scritto. Nel caso del socio ha portato l'auto in officina, questa persona dovrà semplicemente fare una ricarica all'impianto di condizionamento, perché ormai alla vigilia dell'estate ha pensato di fare un po' tutta una serie di controlli sull'auto, hanno scoperto che l'impianto non refrigerava e dopo due mesi che l'officina, e dobbiamo dirlo tra parentesi, con tutti i disagi arrecati al socio, hanno deciso di chiamare perché l'intervento era ultimato, hanno pensato di presentargli un conto di 2.600 euro rispetto a quello che era un intervento che si sembrava convinto di cavarsela con poche decine di euro per una semplice ricarica dell'impianto di condizionamento, quindi del gas in questione. Addirittura per due mesi si sono tenuti la macchina, ma il proprietario dell'auto come ha fatto? Con cosa andava via? Ecco, chiaramente il proprietario dell'auto, essendo di Venezia, è anche abituato ad organizzarsi abbastanza bene. Però certo che chiunque in queste situazioni, se non hai la possibilità di avere una seconda auto a casa, ti tocca per forza di cose doverti noleggiare un'auto o cercare di andare in prestito a qualche familiare. Però il caso di cui stiamo parlando è proprio la testimonianza di come troppo facilmente questi signori si comportano in maniera, da un lato poco trasparente, poi dall'altro è capitato che poi questa persona gli ha dato anche 1.500 euro rispetto ai 2.600 euro del conto, nella speranza comunque di dover definire bonariamente quella che era una controversia. E questa officina, senza esitare, si è rivolta a una società di recupero crediti per recuperare la differenza, il gap tra i 1.500 e i 2.600 euro. Chiaramente la persona non ci ha visto più, si è rivolto all'Adico, il quale ha notato subito la pratica all'ufficio legale, però certamente a questo punto la vicenda assumerà un aspetto completamente diverso, perché dobbiamo mettere in conto anche quelli che sono stati non solo dei comportamenti non trasparenti da parte dell'officina, ma anche i disagi che hanno arrecato questi signori trattenendosi l'auto due mesi rispetto a quello che doveva essere un intervento che in pochi giorni doveva essere effettuato. È una storia abbastanza complicata, facci sapere come va a finire. Insomma, adesso l'Adico si è mossa, quindi staremo a vedere quali saranno le conclusioni di questa vicenda. Certo è che è importante assolutamente richiedere un preventivo e mai fidarsi, insomma, del ma sì, vedremo, facciamo, non si preoccupi, perché poi il non si preoccupi diventa veramente un motivo di preoccupazione. Sì, e poi Francesco, capita che queste cose accadono sempre quando c'è un rapporto di fiducia tra il cliente, no? e l'esercente, quindi mai sottovalutare questa cosa in virtù di quello che sia un rapporto che si crede di avere, ma soprattutto, come hai detto te, con questo tuo lavoro anche che fai e queste informazioni che diamo, speriamo di evitare molti altri cittadini a trovarsi nella situazione del socio dell'Adico. Grazie quindi al presidente dell'Adico Carlo Garofolini per essere stato con noi. Torneremo a parlare con te, Carlo, anche la prossima settimana. Grazie a te, Francesco. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.